Ok, OBLIO in trasmissione. Secoman sul beat, la nuova era production. E questo è Pane Quotidiano, è così che va. Incubato nella metrica, vita metodica e patetica. 5 di mattina l'infa aliena proiettata in replica. In un mondo fatto plastica, abbatto mura di stoffa sintetica, cercando la mia etica. La mia penna solida come cotenna in penna, getto rime sulla carta nel mio turno di riserva. Gemma che mi infuoca, sinagoga, droga di parole. Se Milano muore, cazzo pianto ancora il seme. Radici nel sapere, ferroviere, ciminiere nere. Dal quinto braccio del potere periferico, bonifico il quartiere, vivifico le zone con le suole. Quando calano le sere, quando cresce la tensione, fra chimere, cicatrici come un fiore. Germoglio fra le maglie del sistema eterno, veterano evaso dalla mia sibilla. Varco la mia soglia, mantenere una famiglia con la voglia di una figlia. Pane quotidiano che lievita sul mondo. Pane quotidiano che mastico ogni giorno. Pane quotidiano le mie fauci come rauci. Sono il fabbro, il mio labbro da Milano te lo sforno. Pane quotidiano che lievita sul mondo. Pane quotidiano che mastico ogni giorno. Pane quotidiano le mie fauci come rauci. Sono il fabbro, il mio labbro da Milano te lo sforno. Smob, cittadino flop, fumo dai tombini. Smob, cittadino flop, ci hanno invasi clandestini. Milano City come sempre in ferrovia, quartier notturne, polizia, vicenda odierne, malattia. Lego City, metro, bis, articolo di vieto, baraccopoli di popoli, di nomadi alla metro. Nuova razza, nuovo assetto, nuova gente senza tetto, solo tara, senza netto. Economia in caduta, code posta, sordo, muta. Go progetto, no global, attaccano McDonald's contro forza nuova, tagliano pompe di benzina, cocaina, con la carta visa, intanto una rapina, i biglietti e Visa. La mia divisa stretta cerca fluido che diserba, nei depositi metropoli da Como fino a Erba. Tra gli sguardi di carogne solco foglie come mari, salari dimezzati di operai. Pane quotidiano che lievita sul mondo. Pane quotidiano che mastico ogni giorno. Pane quotidiano le mie fauci come rauci. Sono il fabbro, il mio labbro da Milano te lo sforno. Pane quotidiano che lievita sul mondo. Pane quotidiano che mastico ogni giorno. Pane quotidiano le mie fauci come rauci. Sono il fabbro, il mio labbro da Milano te lo sforno. Pane quotidiano nella mia città, salve imbalsamata, calma consumata, vita quotidiana sfornata nelle bocche che mortifica chi sfama, senza chiedersi chi paga questa trama, quindi grida. Pane quotidiano, questo è il pane quotidiano. Pane quotidiano, grida pane quotidiano. Pane quotidiano, questo è il pane quotidiano. Pane quotidiano, grida pane quotidiano. Pane quotidiano che lievita sul mondo. Pane quotidiano che mastico ogni giorno. Pane quotidiano, le mie fauci come rauci. Sono il fabbro, il mio labbro da Milano te lo sforno. Pane quotidiano che lievita sul mondo. Pane quotidiano che mastico ogni giorno. Pane quotidiano, le mie fauci come rauci. Sono il fabbro, il mio labbro da Milano te lo sforno. 006, 17° frammento, OBLIO, in trasmissione.